Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, poi noi ci risentiremo martedì. Lunedì il programma, infatti, come ogni anno per il lunedì di Pasqua, sarà sospeso. Giornate in cui le borse sono chiuse, e non solo quelle italiane, chiaramente anche gli Stati Uniti sono chiusi. Questa mattina era aperta Mosca, che ha fatto un balzo del 2,2% dopo gli accordi sull'Ucraina. Lo spread italiano però c'è, è ancora a quota 160 punti, quindi buono, ma chiaramente tutte le attese sono per la conferenza stampa che seguirà al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri in cui, come ampiamente annunciato ieri, dovranno essere dettagliate le misure, soprattutto per la riduzione IRPEF in busta paga, anche la conferma che non cambia la tassazione per le quote delle banche in Banca Italia. Pochi minuti fa il ministro, poi ascolteremo cosa ha già detto questa mattina da Giovanni Minoli, ma il ministro alla sanità Lorenzin ha detto: è ufficiale, niente, ha fatto un Twitter, è ufficiale, niente tagli alla sanità, non è una vittoria personale ma dei cittadini e del Servizio Sanitario Nazionale, ora avanti tutta con patto salute e riforme. Questo appunto mentre era ancora in corso il Consiglio ed è ancora in corso il Consiglio dei Ministri. Oltre ai tagli alla sanità c'era il tema del tetto agli stipendi dei dirigenti anche per i magistrati. L'IRAP, metà del taglio scatterà quest'anno, il 10% vero e proprio arriverà invece l'anno prossimo, dove l'aliquota del principale dell'IRAP passerà dal 3,9 al 3,5%. Confermato invece che aumenta il prelievo sulle rendite finanziarie, i tagli alla difesa per 200 milioni di euro quest'anno, 900 milioni a partire dal 2015. E poi ancora, soprattutto, ripeto, il bonus IRPEF è riconosciuto ai dipendenti, ma anche ai co-co-co. Di fatto funzionerà come una detrazione, sarà calcolato dal datore di lavoro che dovrà erogarlo dal primo periodo di paga utile, rapportando le mesi e poi rimanenti. Nel 2014, quindi per l'anno in corso, da quello che abbiamo capito, il bonus è del 3,5% per i redditi fino a 17.700 euro, poi arriva a 620 euro per i redditi tra 18.000 e 24.500 euro, poi inizia a scendere progressivamente fino, come già ricordavamo, a ridursi a zero per quello che riguarda i redditi superiori ai 28.000 euro lordi l'anno. Tra l'altro il bonus nel 2015 varrà 950 euro per la fascia maggiormente interessata, ripeto, quella tra i 19.000 e i 25.000 euro sostanzialmente, perché si spalmerà sull'intero anno, mentre adesso parte di fatto, se tutto verrà confermato, partirà da maggio. L'importo andrà indicato nel CUD, il lavoratore potrà anche usarlo per compensare imposte da pagare, questo stando agli ultimi aggiornamenti su questo, ma ripeto, cercheremo di ascoltare in diretta a questo punto la conferenza stampa di Matteo Renzi e poi il commento appena arriverà. Doveva essere alle 4:30, ma ormai siamo abituati a slittamenti sui tempi. Per il resto, l'altro tema di puntata riguarderà il Monte dei Paschi. Come il Sole 24 Ore per primo anticipò, confermato un aumento del Monte dei Paschi non a 3 miliardi di euro ma a 5 miliardi di euro, l'aumento di capitale da metà giugno a metà luglio, è la finestra indicata oggi da Fabrizio Viola, il numero uno del Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. C'è anche il bollettino della Banca d'Italia, adesso vi arriviamo. Volevo andiamoci subito al bollettino della Banca d'Italia dove la Banca d'Italia sottolinea come la riduzione dello spread è dovuta anche agli afflussi verso l'area euro di investimenti prima detenuti nei paesi emergenti. È tempo che lo diciamo. L'instabilità dei paesi emergenti sta portando poi i capitali a spostarsi da lì verso l'area euro ritenuta più tranquilla. La Banca d'Italia dice però attenzione per quello che riguarda la disoccupazione, una crescita degli occupati non avverrà prima della fine dell'anno e l'inflazione resterà bassa a lungo e va contrastata, mentre l'accelerazione data dal governo ai rimborsi dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione ha aiutato in parte la ripresa, che prosegue però lenta e tirata unicamente, diciamo, dall'export. E poi sul credit crunch, quindi la restrizione del credito per le imprese, dice la Banca d'Italia, ci sono segnali di un'attenuazione di questa restrizione del credito. E per la prima volta nel quarto trimestre 2013 abbiamo avuto un calo nelle nuove sofferenze, nel senso nei crediti che le banche difficilmente rivedranno indietro, nei soldi prestati alle imprese che le banche difficilmente vedranno ritornare. Infine sulla competitività la Banca d'Italia fa notare come quella degli esportatori italiani sia scesa di 4 punti percentuali da metà del 2012, che è un trend negativo comune a tutti i partner dell'area euro. Perché? Perché l'euro è troppo forte, l'apprezzamento del cambio è molto alto, su questo non ci sono dubbi, lo diciamo spesso, un rapporto normale dovrebbe essere a 1 a 1, un euro, un dollaro, 1,1, non certo a 1,40, quasi, siamo a 1,38 e 17, per cui, ma il fatto che l'euro sia troppo forte rispetto al dollaro non è solo colpa dell'euro, è soprattutto volontà dell'America a tenere un dollaro basso. E ripeto, nel mercato dei cambi non è così facile modificare un rapporto di cambio, perché gli investitori sono migliaia e operano da qualunque paese nel mondo, quindi non basta, diciamo, vendere euro e comprare dollari se lo fai tu in Europa, perché da qualche altra parte, magari in Asia, c'è qualcuno che fa l'opposto e il cambio non si muove. Ancora industria, il fatturato a febbraio meno 1,5% rispetto a gennaio, però ed è una flessione alta, la più alta dal gennaio 2013, però è ancora in aumento rispetto a un anno prima, sempre grazie al mercato estero, sempre grazie alle nostre esportazioni, più 1,2%. Gli ordinativi calano a febbraio del 3% rispetto al mese precedente, ma sono ancora in aumento rispetto a un anno fa. Quindi rispetto a febbraio 2013 gli ordinativi all'industria sono in aumento di quasi il 3%. Gli ordinativi sono importanti perché ti danno la previsione di quello che sarà poi il fatturato dell'industria. Per quello che riguarda i contratti in attesa di rinnovo, fa sapere l'Istat oggi che 6 dipendenti su 10 aspettano ancora il rinnovo contrattuale, sono il 62% del totale, 8 milioni di persone, di cui 2 milioni e 900.000 nella pubblica amministrazione. E sempre l'Istat fa sapere che le retribuzioni come andamento sono ferme a marzo, più 1,4% rispetto a un anno prima, il che vuol dire che sono leggermente, che aumenta il divario tra l'inflazione, più 0,4, e l'aumento in busta paga, a vantaggio in questo caso della busta paga. Mi rendo conto che non siano delle grandi cifre, ma quando tu hai l'inflazione che fa più 0,4 e le retribuzioni che fanno più 1,4, hai un leggero vantaggio sul fronte retributivo. Allora, dicevamo del tweet del ministro Lorenzin, che è l'unica notizia, diciamo, che è arrivata in questo momento dal Consiglio dei Ministri ancora in corso. Questa mattina Beatrice Lorenzin era ospite di Giovanni Minoli a Mix 24 su Radio 24 e già aveva anticipato che in Consiglio dei Ministri lei avrebbe dato battaglia proprio sul tema dei tagli. Non ho pensato di dimettermi, ho pensato invece di combattere per spiegare a, che la, la politica sanitaria, la salute delle persone ha bisogno vabbè, di una strategia. Ne parliamo, senta, ma intanto ci sarà battaglia oggi in Consiglio dei Ministri allora? Direi proprio di sì. Ma saranno tagli sugli acquisti? Se sono tagli sugli acquisti a me vanno bene, io l'ho già detto. E dove pensa di prenderli? Dagli sprechi, che ce ne sono ancora tanti quindi... all'interno della sanità, per esempio nelle lavanderie degli ospedali, nelle mense, nella gestione dei rifiuti, ma non si può andare a toccare i servizi primari alle persone. Naturalmente, ecco. Allora il patto delle regioni comunque muore prima di nascere, mi pare. Se non c'è la capacità di capire che può essere il Ministero della Salute insieme alle regioni a gestire questo risparmio, sì, è difficile che le regioni possano continuare così. Allora, questa mattina, in realtà prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, anche il Premier Matteo Renzi aveva fatto un Twitter dicendo: scendono gli oneri contributivi, la promessa diventa realtà, le tasse diminuiscono per 15 milioni di persone. Dopo aver ricordato in un'intervista al direttore della stampa Mario Calabresi che in questi giorni ci sono state più bufale sui giornali che in campagna, ascoltiamoci un pezzetto anche di questa intervista in cui ha detto Renzi: poi non alzeremo le tasse, i tagli sono strutturali. No, e francamente io sono anche abbastanza sorpreso. Ho letto, ci sono più bufale sui giornali su questa roba che nell'intera campagna della campagna. C'è bufale a gogo proprio, una cosa inaccettabile. Prima ci dicevano che io non avrei mai avuto il coraggio di tagliare l'IRPEF e l'IRAP. Poi ci dicevano che lo avremmo fatto con una televendita ma senza il DEF. Poi è arrivato il DEF e ci hanno detto che mancava il decreto. Poi è arrivato il decreto e ci hanno detto che mancava le coperture. Poi sono arrivate le coperture e se le sono inventate. La sintesi è: questi denari non vengono con l'aumento delle tasse per chi guadagna di più. Cioè non è che guadagna di più da chi guadagna di più. Ancora per quello che riguarda le dichiarazioni del Premier Renzi, aveva già anticipato, non ci saranno tagli alla sanità. In realtà nella bozza erano previsti 2 miliardi e 400 milioni di tagli alla sanità in un biennio, ecco perché sarà interessante capire come verranno coperti questi tagli, visto che a questo punto è chiaro che non vi saranno più tagli alla sanità. Ancora Renzi ha continuato: da giugno abbiamo già recuperato 300 milioni di euro di evasione e da giugno avremo anche la fatturazione elettronica, però attenzione, lo spazio di recupero è enorme, ma non si ottiene con i blitz a sorpresa Cortina o sul Ponte Vecchio, ma con l'incrocio delle banche dati, un tema su cui il Premier era già intervenuto. Infine, per l'Italia, mentre il ministro Lupi dice che l'accordo con Etihad dà fastidio a molti, alcuni pensano a Air France, ma altri pensano soprattutto alle compagnie concorrenti a livello europeo, che non sono certo contente di un'Italia che dovesse firmare un accordo. E Lupi ha anche confermato che è partita la lettera di risposta da parte di Alitalia alle richieste di Etihad, e il Premier Matteo Renzi ha detto: la partita con Etihad non è chiusa, ci stiamo ancora lavorando. Infine, sulle nomine, Renzi ha toccato anche il tema di Mauro Moretti, che dalle Ferrovie dello Stato è andato a fare il numero uno di Finmeccanica. Ha detto: abbiamo scelto Moretti perché è bravo e ha risanato l'azienda, e poi basta fare il raffronto tra Ferrovie e Alitalia. Quando è arrivato Moretti le due aziende erano in condizioni simili, guardate la differenza ora. Parleremo dopo del Monte dei Paschi di Siena e parleremo anche a questo punto di Telecom Italia. Volevo dare un'ultima notizia prima di raccontare invece qualcosa di meno divertente, oddio, non che questa sia così divertente, però la Pasqua 2014 sta facendo segnare una ripresa del turismo sia in Italia che all'estero, un aumento stimato intorno al 5% quest'anno, lo afferma la Coldiretti. 4 milioni e 100.000 italiani trascorreranno almeno un giorno di vacanza in Italia e all'estero in questa Pasqua. Ancora meno di 4 milioni però gli italiani che consumeranno il pranzo di Pasqua al ristorante, per una spesa complessiva di 160 milioni di euro. Prevarrà la formula del menù tutto compreso, ce lo dice la FIPE Confcommercio. Il 70% dei locali ha scelto infatti un prezzo medio di 40 euro, lo stesso di un anno fa. Però c'è un certo scetticismo: la percentuale dei locali che restano aperti passa dal 97% al 94%. E la maggior parte si aspetta che le cose, uno su tre si aspetta che le cose andranno peggio. E anche su Pasquetta i ristoratori stimano un andamento, se va bene, analogo a quello dell'anno scorso. Invece, però, per quello che riguarda le spese delle famiglie italiane, la spesa per gli alimentari è stimata in calo del 4%, a poco più di un miliardo di euro, e 4 italiani su 5 comunque passeranno la Pasqua in casa. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso due o tre notizie su alcuni sprechi. Una in realtà è buona, riguarda quel marasma che c'era nella regione Sicilia sui piani di inserimento professionale, ossia a chi aveva diritto all'assegno sociale erogato dall'INPS ma che veniva pagato dalla regione. Allora sì, i PIP, cosiddetti piani di inserimento professionale, che danno diritto all'assegno sociale erogato dall'INPS ma pagato dalla regione. Nell'elenco comparivano nella regione Sicilia 2.800 iscritti fino alla scorsa settimana. Adesso, grazie, e va dato merito al presidente, al governatore Crocetta, di aver voluto fare pulizia, ne sono presenti 500 in meno, 2.335. Perché? Beh, in primo luogo perché alcuni non avevano diritto. C'erano persone che ricevevano gli 832 euro di sussidio della regione siciliana anche se avevano una dichiarazione dei redditi superiore ai 20.000 euro. C'è stato un caso di un soggetto che aveva un patrimonio di 1.200.000 euro e continuava a ricevere il sussidio. Raccontammo 4 giorni fa il caso di Domenico Albanese, 47 anni, era latitante, rapinava le banche ma percepiva comunque il sussidio. Il problema è che non era l'unico, perché di questi 500 che sono stati espulsi dalle liste vi erano persone non solo che avevano un reddito più alto del previsto, ma che avevano reati che andavano dall'associazione mafiosa alla rapina, passando per lo spaccio di droga, e alcuni anche reati sessuali, di abuso sessuale, e continuavano a percepire questi 832 euro. Complimenti, quindi, meno male che ci si è messa mano su questa cosa. Grazie al governatore Crocetta. Mentre faccio notare che la Regione Puglia ha visto quasi 36.000 candidati per 200 posti da funzionario a tempo indeterminato da impiegare nella macchina amministrativa. Le iscrizioni online si sono chiuse alla mezzanotte di 2 giorni fa. Le candidature riguardavano sia il profilo amministrativo che il profilo tecnico. Le donne sono il 58% del totale, quasi 60%, 20.000. La stragrande maggioranza proviene dalla Puglia, ma seguono anche la Campania e la Sicilia. Ci sono anche 4 candidati dalla Val d'Aosta e 17 dal Trentino Alto Adige. E poi abbiamo raccontato in questi mesi anche dei fascicoli della giustizia civile che vengono usati come fermaporta, per cui imprenditori o avvocati che cercavano di capire che fine avesse fatto la loro pratica se la sono trovata usata come fermaporta. Beh, in realtà al Tribunale di Bergamo, alla sezione civile vicino alla Scala C, praticamente ci sono pile intere, per lo più appoggiate sul pavimento, con scritti nomi di aziende, persone, parti, controparti, faldoni, comi di documenti, tutti incustoditi, tant'è che c'è una specie di foglio che dice: mi raccomando, non cambiate l'ordine, i vostri fascicoli sono divisi per lettera, non alterate l'ordine. Sapete perché? Però qui la giustizia civile conta fino a un certo punto. Sono i fascicoli di parte, quelli delle cause chiuse, perché arrivate a sentenze sui quali c'è maretta tra il tribunale e gli avvocati. Perché? Perché il tribunale dice che se li devono riprendere gli avvocati questi faldoni, che non possono tenerli in tribunale. Il presidente dell'ordine Siniscalchi, ordine di Bergamo, dà ragione al tribunale: è vero, c'è una nostra negligenza, hanno anche stanziato gli avvocati l'ordine 6.000 euro per appaltare il servizio di ritiro dei faldoni a un esterno, ma poi si sono tornati ad accumulare. E il codice civile solleva i cancellieri dal rendere conto degli incartamenti dopo 3 anni della sentenza, e in questi fascicoli ci sono tutte le istanze, le consulenze, i documenti delle parti, c'è anche un problema di privacy, ma sono accatastati lì. Devo dire, questa volta il punto è che devono riprendersi gli avvocati stessi.

porta un po' di sfiga dopo quello che è successo a Enrico Letta, però mi sembrava molto sereno sul fatto che dicevo, le compravendite, cioè il passaggio di mano delle azioni in questi giorni valeva più dell'intero capitale come volume, se tanto mi dà tanto, oltre che avere loro 10 banche che gli garantiscono che comunque verrà sottoscritto l'aumento di capitale, se c'è interesse sul titolo, diciamo, non dovremmo avere problemi a portarlo a 5 miliardi, un aumento, come magari tu sapevi già, però era importante chiarirlo per tutti, dovuto soprattutto per mettersi a riparo nei confronti degli stress test che arriveranno, proprio come atto propedeutico all'Unione Bancaria Europea, Marco. Ma sì, io non starei molto sereno dovessi fare un aumento da 5 miliardi di qui ai prossimi due mesi, però no. Infatti non ti chiami Fabrizio Viola. No, effettivamente il clima sembra diverso rispetto a quello di qualche mese fa. Il consorzio stesso si è dimostrato da subito disponibile a valutare questo aumento, quindi evidentemente le sensazioni sono buone. Quello che sembra è che a Siena veramente si stiano cominciando a studiare le lingue, quindi i soci stranieri già sono importanti, lo saranno sempre di più. Ripeto, sarà veramente interessante capire quali. Per ora anche la fondazione, oltre ai due soci sudamericani, ha venduto soprattutto hedge fund che vanno, vengono. Bisognerà capire se si creerà un nocciolo. -17:50 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, hashtag Consiglio dei Ministri dove sei, nel senso che adesso con questa moda di mandare i tweet da dentro il Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi ha scritto: è questione di minuti il disegno di legge sui bonus, quindi immagino la presentazione, perché doveva essere a venire la conferenza stampa alle 16:30, però c'è stato un chiaro slittamento. Allora, intanto da questo punto di vista vediamo che cosa sta arrivando anche dal resto delle agenzie per quello che riguarda il bonus. No, nulla, sto controllando assieme a voi perché tutto sta venendo in diretta. È confermato solo che non vi sono tagli alla sanità, questo con il tweet del ministro Lorenzin. E che Alberto Manenti è il nuovo direttore dei servizi segreti italiani, e va bene, ma questo ci interessa poco come programma. E appunto, che ecco però alcuni flash, ultimi ritocchi: verrebbe confermato il bonus di 640 euro complessivi nel 2014, che fanno 80 euro al mese per la fascia tra i 18.200 e i 25.000 euro. Per gli incapienti il bonus rimarrebbe pari al 3,5% del reddito, e il bonus sarebbe riconosciuto anche ai co-co-co e salirebbe quindi da 620 a 640 euro. Ancora per quello che riguarda, sì, non posso chiedere altre cose o diciamo tornare sul tema dell'aumento di capitale di Viola. Mi sembra che Viola, lo dico a chi sta scrivendo messaggi, abbia risposto a tutto. Volevate, alcuni di voi vogliono un aggiornamento sul bollettino della Banca d'Italia, non ci sono aggiornamenti, è un bollettino che viene diffuso, messo in meta dalla Banca d'Italia, e ripeto, stima che la crescita dell'occupazione non arriverà prima di fine anno, che l'inflazione resterà bassa a lungo e andrà contrastata, e soprattutto che la riduzione dello spread, oggi a quota 160 BTP Bund, si è dovuta anche agli afflussi verso l'area euro di investimenti prima detenuti nei paesi emergenti. Questo lo ricordo nel giorno in cui dalla produzione industriale, o meglio dal fatturato industriale e dagli ordini attivi ha dato un segnale discordante in chiaroscuro, nel senso che è ancora in crescita rispetto a un anno fa, più 1,2% il fatturato della nostra industria rispetto a febbraio 2013, più 2,8% gli ordini attivi rispetto sempre a febbraio 2013, ma sono in calo rispetto al mese di gennaio, rispettivamente il fatturato dell'1,2% e gli ordinativi del 3,1%. criticano Viola perché non ha detto brava alla Mansi. No, ha detto che è stata brava e è stata anche fortunata. Ha detto le due cose. Non che sia stata solo brava. Allora cerchiamo di capire. Io vorrei dire una cosa, per carità, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono, però è inutile continuare. È la quarta volta che ci capita in diretta. Lo dico col massimo rispetto al Presidente del Consiglio. Continuare a fissare queste conferenze stampa alle 4:30 che non vengono mai rispettate. Almeno non date un orario, così i vari canali, vedo Sky in estrema difficoltà, ovviamente. Non devono fare numeri da trapezisti. Elisabetta Fiorito, ci siamo o no? Perché a me l'hashtag è questione di minuti. Io, vabbè. Allora, il Twitter, dunque, scusami. È stato dato la conferma che il Consiglio dei Ministri sulla diminuzione del taglio dell'IRPEF è finito. Vabbè, e quindi tra poco Renzi arriverà in sala stampa. Diciamo che forse il Presidente del Consiglio è ancora un po' novello e non riesce a capire novello. Che poi i ministri si possono prolungare. Credo. Lui ha questo effetto annuncio, era questo quello che... Sì, ho capito, però va bene, ma si può anche dire faremo la conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri, certo, invece che fissare questo orario che mai viene, ma non è una polemica, è nulla, mentre restano poi i provvedimenti dentro, dico semplicemente è inutile dire. Un novellino. Allora, prima ora abbiamo capito attraverso qualche retroscena che questo slittamento di questa conferenza stampa è avvenuto, indovina perché, Sebastiano? Perché i ministri sono in allarme per timore dei tagli. Cioè, dove si prendono i soldi per tagliare? Beh, devo dire che la Lorenzin, il ministro Beatrice Lorenzin, questa mattina da Giovanni Minoli a Radio 24, l'aveva detto in maniera molto chiara: sarà battaglia sui tagli. Mi sembra che l'unica notizia uscita sia proprio quella che riguarda il ministero, il dicastero della Lorenzin, dove non vi saranno i tagli. Il problema vero è capire, e cercheremo di farlo dopo anche con Guido Gentili, se avremo modo di illustrare tutto, dove arriveranno le coperture. Perché, se ben ricordo, dalla sanità erano attesi quasi 2 miliardi di euro di tagli che servono per arrivare ai 6 miliardi e 7 che vale l'intera manovra, diciamo, su tra IRAP e soprattutto bonus IRPEF. Sì, ecco, diciamo che quello che è successo, almeno secondo le voci, che a riunione del Consiglio dei Ministri in corso è cominciato un via vai di tecnici dei vari ministeri che praticamente carte alla mano cercavano di stimare i tagli imposti a ciascun ministero, quindi entrando e uscendo nella sala del Consiglio dei Ministri. Quindi deve essere stato, come al solito, in questo Renzi sottovaluta che è un Consiglio dei Ministri e che quindi poi deve dialogare. È un organismo collegiale, si chiama Consiglio dei Ministri, non Consiglio Primo Ministro. Elisabetta, grazie intanto, perché adesso vedo che, appunto, come tu hai anticipato, è terminato il Consiglio dei Ministri. Alle 18:08 riprende Focus Economia, sempre in attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Devo dare anche qualche risposta a qualche ascoltatore, capisco anche l'allegria così, visto che oggi ci avviciniamo al Ponte Pasquale. No, tranquilli, ecco che è iniziata la conferenza stampa, le risposte allora le diamo dopo, apritemi i microfoni, sentiamo Matteo Renzi, conferenza stampa sul DL bonus fiscale. Del Rio, come è naturale, tutti i ministri che hanno collaborato, il ministro Boschi, i ministri interessati in particolar modo, fatemi dire, il ministro Pinotti e il ministro Martina, per motivi che tra breve andrò a indicarvi. È una, in realtà questo nostro provvedimento che stiamo annunciando alla vostra attenzione non è l'unico delle giornate di oggi e delle giornate di questa settimana, più correttamente. Considerate che è 4 giorni che io non esco da Palazzo Chigi, per cui oggi ho visto che c'è uno, ha fatto una foto, ha messo la foto mia, era alla finestra, era l'ora d'aria, era l'unico allora momento. Allora, mentre Renzi inizia, deve ancora iniziare ad entrare nei contenuti. È un momento molto bello, però io sono felice, molto ecco, felice. Ecco, ricordiamo perché... che l'unica informazione che abbiamo su quello che è stato il risultato del Consiglio dei Ministri è che Italia e la sanità non vi saranno. Cerchiamo di capire, vediamo quando arriverà poi al tema delle coperture il Presidente del Consiglio, da dove verranno reperiti questi 2 miliardi per arrivare ai 6 miliardi e 7 complessivi per la manovra sulla busta paga, IRPEF e in parte anche IRAP. per cui da questo punto di vista adesso Matteo Renzi sta ancora illustrando tutta e come si è mossa l'intera giornata, l'intera riunione del Consiglio dei Ministri. Sentiamo, non è che un primo passo. È un intervento davvero significativo e corposo. Ora X, Italia coraggiosa e semplice. Ci vuole un po' di coraggio ad andare contro alcune abitudini e alcune scelte che non venivano messe in discussione da tempo. Però è una scelta dettata dalla semplicità. Un'Italia più semplice, dove ci sono meno auto blu, certo, nel piccolo, dove i denari pubblici vengono messi online entro 60 giorni da oggi, o meglio, da quando sarà pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale. Un'Italia più semplice in cui è più chiaro non soltanto individuare il centro di costo, ma soprattutto cercare di avere un benchmark di riferimento tra le singole regioni, le singole amministrazioni comunali, le singole amministrazioni statali, che permetta al cittadino di avere chiare le idee e di avere chiaro la spesa della pubblica amministrazione. Che cosa facciamo oggi con questo decreto? Vi illustriamo come daremo i mitici 80 euro mensili, misura che non è una tantum, ma è misura strutturale, esattamente come è strutturale il processo di taglio della spesa, esattamente come è strutturale il processo di taglio della spesa. Illustriamo come riduciamo l'IRAP, l'imposta sul lavoro di fatto, del 10% attraverso una misura che è strutturale per le aziende private, e vi annunciamo i dati che riguardano le coperture. Eccoci. Non prima di aver detto che nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull'alluvione e il terremoto in Emilia Romagna, i primi stanziamenti sugli interventi a Lucca e Massa Carrara, parlo ovviamente di maltempo, oltre che altri singoli provvedimenti che vedrete nel corso nella tabellina che sicuramente Filippo vi darà. Non so se Filippo hai già tutto il materiale, sei pronto? L'ho un po' allungata per sapere se potevo andare, perché allora, qui siamo, cioè, Renzi ha lo stesso problema che abbiamo noi, solo che Guido Gentili, ci sei in collegamento? No, perché sì, sono qui, ascoltare 6 minuti, 7 minuti di preambolo va bene, insomma. No, perché non so chi sia Filippo, ma vorremmo capire, al di là di Filippo Sensi, bravo Guido, vorremmo capire Italia, confermate il 10% dell'IRAP e le coperture, soprattutto, se no rimetto la base musicale di prima che piace tanto agli ascoltatori, però non vorrei essere irriverente. La settimana prossima, ma questo consentirà di erogare i mitici 80 euro fin dal mese di maggio. Ok, e questa è una conferma, una notizia. Che cosa abbiamo? Ci siamo, Filippo? Ancora un secondo. Potrei parlarvi adesso a lungo della... Domani c'è Fiorentina-Roma. No, faccio per dirlo, però è stato un momento anche... Abbiamo fatto poter raccontarvi... No, fatemi dire due cose serie, allora. Cioè, non che Fiorentina-Roma non sia seria, anzi. Visto che stiamo aspettando i tweet, se mi date anche la tabellina con le coperture, così, che ho lasciato su nella mia stanza, mi fate una cortesia. Partevo da memoria... Ecco, ce l'ha... Per Carlo la guardiamo dopo. Prima di arrivare alle coperture vorrei raccontarvi come, tra le varie ipotesi di cui possiamo parlare in attesa di entrare sui tweet, vorrei dirvi come andranno gli 80 allora, euro. Se la regia è d'accordo, perché è stato oggetto di una discussione anche in Consiglio dei Ministri, però devo dire sui giornali. Io ho proposto, facciamo un passo indietro, il tema è la restituzione. Noi stiamo restituendo agli italiani qualcosa che è degli italiani. E lo stiamo facendo stringendo la cinghia alla politica e all'amministrazione. Di 18:17, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, Guido Gentili in collegamento, Matteo Renzi che adesso ha il telecomando, vedo che ha anche le slides, e da questo punto di vista dovremmo entrare nel vivo della conferenza stampa, anche se per ora Renzi ha annunciato la conferma di 80 euro strutturali e sugli incapienti gli interventi nei prossimi mesi. Vai, vediamo se è entrato nel vivo del provvedimento. La propria macchina, usano il motorino. La riduzione di auto blu più significativa della storia. Tra l'altro faccio una battuta. L'altra volta quando ho fatto la citazione dell'asta dell'auto blu, molti sorridevano dicendo non venderai niente. Senza le Maserati abbiamo già venduto le prime 52. Centinaia di migliaia di euro che stanno entrando. Chiaro, a prezzi più alti di quelli di quattro ruote. Quindi c'è una bella soddisfazione. Massimo 5 obiettivi del ministero, quanto fai con questa misura? Poche milioni di Guido, euro. Dammi una previsione, quando inizierà a parlare di copertura? Perché inizia a essere un po'. C'è un ascoltatore, sì, mi ha scritto: è facile lavorare così, Barisoni, Apri il microfono, capito? Facile, venga lei qui, perché qua. Allora, un'ora e mezza di ritardo, quasi due, 10 minuti, potevano scendere anche più preparati. Comunque, vabbè, la conferma. Ora Italia coraggiosa e semplice. Open data, tutte le spese degli enti locali. Prevede un articolo del decreto, saranno non soltanto degli enti locali, qui attenzione, degli enti anche centrali, quindi abbiamo messo per vedere se eravate attenti, non soltanto degli enti locali, ma anche degli enti locali, sarà online entro 60 giorni. È una previsione di legge che già c'era, ma che non era sanzionata, per cui se il singolo comune non mi dà tutti i dati, non il bilancio online, ma tutti i dati, quanto spende per comprare il telefonino all'assessore, noi riduciamo i trasferimenti. Perché questo? Perché la revisione della spesa, vedrete poi nelle coperture che queste voci valgono ben poco nel 2014, ma come ci ha spiegato più volte Piercarlo, il punto centrale è essere capaci di continuità, anzi di insistere su questo tema, costituiscono un'autentica rivoluzione. Voi immaginate che tutte le regioni mettano online ogni centesimo che spendono per la sanità. E provate a immaginare dei ragazzini che con quei dati, che non sono dei PDF ma sono dati aggredibili, facciano delle applicazioni che mostrino il prezzo medio della siringa, che mostrino come il benchmark tra le singole regioni possa essere significativamente diverso, che spieghino come il comune di XY sia un comune che spende per l'illuminazione X e il comune accanto spende al 30% in più. Se a questo uniamo il fatto che noi abbiamo scelto di non avere, entreremo poi sui tagli quando parleremo delle coperture, non i tagli lineari, ma abbiamo dato agli enti che tagliamo la disponibilità a fare loro le scelte, se non le fanno c'entriamo noi con l'ufficio del commissario alla spending, capite che sta accadendo una rivoluzione, non c'è più il 5% per tutti. Io dico online tutte le spese. A quel punto si capisce dove stanno gli 800 miliardi di spesa, le voci dei singoli, quanto costa non il personale in generale, ma quanto costano, quante sono le persone, quanto prendono, tutto online, su un unico sito che farà capo all'ufficio del commissario per la spending. Questo atteggiamento entro 60 giorni è l'inizio della rivoluzione. Nel primo anno quanto darà? Abbiamo scritto qualche milione di euro scarso, poi vi dirò la copertura. Ma in prospettiva è una rivoluzione gigantesca, anche perché se io sono un dirigente che vede che il dirigente del Rio nel suo comune spende il 30% in meno, intanto ci sto molto più attento perché non ho più alcun tipo di possibilità di nascondere il dato. Chiaro, percorso che sarà molto lungo, vorrei essere chiaro, perché magari lui c'ha l'illuminazione però ci mette anche, parlo dei comuni, la pubblicità sopra, cioè lui nel palo, caro Guido, della luce. Temo che per le 18 e 28 non arriveremo alle coperture, ho una così vaghissima sensazione, però continuiamo ad ascoltare, anche perché la spesa degli enti locali online con la sanzione che si abbassa in trasferimenti dello Stato è una novità. Diciamo che ti ha scritto un ascoltatore, c'è prima la televendita poi il programma, non cerchiamo di non essere troppi irriverenti. Molti di voi hanno scritto che è una norma che fa riferimento a alte cariche dello Stato. Lasciatemi dire che la norma Olivetti, la norma che richiama il grande principio sacrosanto di Adriano Olivetti, in un'azienda nessuno, diceva il grande Olivetti, può guadagnare 10 volte più di quello che guadagna l'ultimo lavoratore. In realtà non è così, e qui siamo anche più alti. Noi mettiamo un tetto di 240.000 euro insormontabile per i dirigenti della pubblica amministrazione. Questo vuol dire che lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione passa da 3.11 a 2.40. Ma che di conseguenza anche chi oggi guadagna 260-270.000 euro si riduce. Mi direte, ma come? Abbiamo letto di autorevoli dirigenti che minacciano la fuga nel privato. Brivido. Se vogliono andare nel privato avranno la nostra lettera di referenze, di augurio e di bocca al lupo. Chi lavora nel pubblico ha una responsabilità in più oltre a quella di fare bene il proprio lavoro, che è quella di fornire un elemento di credibilità a se stesso e agli altri. Io credo che in un momento nel quale gli stipendi dei dirigenti sono cresciuti e gli stipendi dei lavoratori no, dare un tetto massimo, che è il tetto di 20.000 euro al mese, non è un tetto così drammatico. E non perché è molto più del doppio di quello che prende il Presidente del Consiglio, ma perché è un principio di serietà. Dice, ma sono lordi, falli anche netti. Lo diciamo agli italiani con chiarezza. Ridurre gli stipendi dei mega dirigenti e delle società a partecipazione totale, delle società che sono previste già dalla Monti come società a questo, diciamo, collegate, vale a dire società che non siano quotate in borsa o con emissione di titoli, e si fa esclusione per la parte artistica, è un principio di buonsenso ed è anche un modo per cercare di far la pace con gli italiani. È un modo per cercare di restituire eguaglianza sociale. Chiaro, la Camera e il Senato, che sono organi autonomi, sulla base del principio costituzionale, dovranno decidere loro se ridurre gli stipendi. Credo che siano diversi, qualche decina che stanno sopra quella cifra. Io penso che sarebbe un gesto molto bello se nella loro autonomia gli uffici di Camera e Senato riflettessero. Allora, mentre Renzi, adesso io non ho che ho sbuffato perché sono contro Renzi, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, no, è che speravamo di riuscire a dare la conferenza stampa nella parte più importante sulle coperture, però Guido Gentili, visto che poi le notizie le avrà il nostro GR24, l'ascolteremo anche nei prossimi giorni, quello che possiamo dire di certo è il taglio IRA per il 10%, gli 80 euro sull'IRPEF dal mese di maggio, e massimo 5 auto blu al ministero, e questa cosa comunque delle spese degli enti locali, che adesso al di là della battuta, i dirigenti pubblici massimo 240.000 euro al mese, che non è da sottovalutare nel principio della sanzione, soprattutto sì, nel principio della trasparenza e della sanzione. È un punto importante perché questo può effettivamente determinare una scossa in un settore che ne ha, come sappiamo, un grandissimo bisogno. E poi la parte che riguarda, diciamo, i non tagli alla sanità. Guido, per il resto, vabbè, massimo 50 blu al Ministero, l'abbiamo detto, il chiarimento sulle paghe, l'abbiamo spiegato molte volte, ma lì non c'è notizia che chi gestisce società quotate in borsa e partecipate dallo Stato o che possono emettere obbligazioni non potrà avere più, non sarà incluso nella soglia di 240.000 euro. Vedo adesso Renzi che dice dalle banche arriverà un contributo importante, però Guido, io ti auguro buona Pasqua, grazie per averci tenuto compagnia, nel senso che c'è stata una premessa così non esattamente giornalistica, se posso dirlo senza sembrare anti-renziano, non me ne frega nulla, sono né pro né contro. Siamo partiti un po' dalla coda. Ecco, mettiamola così. Grazie, buona Pasqua. Poi il commento sulla manovra lo rifaremo martedì. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, Barbara, buona Pasqua anche a voi in ascolto, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. A chi mi chiede le borse, l'abbiamo spiegato in apertura, le borse oggi sono chiuse. Mentre Renzi sta dicendo che bisognerà sfoltire e semplificare le municipalizzate e che il governo ha smentito i gufi, io vi ricordo che domani vi sarà come sempre il meglio di Focus Economia in onda a Radio 24 dalle 17 alle 18. Ah sì, teniamo, la dico in regia, teniamo questa base, teniamo questa base. Focus in diretta torna martedì dalle 17. Buona Pasqua da Sebastiano Brisoni. Radio 24. La passione. Si sente.